Ecco il mio servo, che io sostengo, il mio eletto, nel quale l'anima mia si compiace. Ho posto il mio spirito sopra di lui. Egli proclamerà il diritto alle nazioni. Non griderà, non alzerà il tono, non farà udire la sua voce in piazza. Non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumigante. Fedelmente proclamerà il diritto. Non verrà meno e non si accascerà finché non avrà stabilito sulla terra il diritto, poiché le isole anelano al suo insegnamento. Così parla il Signore Dio, che ha creato e disteso i cieli, che ha rafforzato la terra ed i suoi germogli, che ha conferito il respiro al popolo che l'abita ed il soffio a quelli che in essa camminano. Io, il Signore, ti ho chiamato nella giustizia e ti ho afferrato per mano, ti ho formato e ti ho stabilito alleanza di popolo e luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, far uscire dal carcere i prigionieri e dalla prigione gli abitatori delle tenebre. Io sono il Signore, questo è il mio nome. Non cederò ad altri la mia gloria, né il mio onore agli idoli. I fatti antichi, ecco, si sono avverati, e di nuovi li preannuncio. Prima che si producano, io li faccio conoscere. Cantate al Signore un cantico nuovo, la sua lode dai confini della terra. Lo celebri il mare e ciò che lo riempie, le isole ed i loro abitatori. Esulti il deserto con le sue città ed i villaggi in cui abitano quelli di Chedar. Giubilino gli abitanti di Sela, dalla cima dei monti inneggino. Rendano gloria al Signore ed annuncino la sua lode sulle isole. Il Signore avanza come un eroe, eccita l'ardore come un guerriero, lancia il grido di guerra, vocifera, riporta vittoria sui suoi nemici. Ho conservato il silenzio per lungo tempo, ho taciuto, mi sono contenuto. Ora gemo come una partoriente, sospiro e sbuffo insieme. Devasterò i monti e le valli, e inaridirò tutta la loro verdura. Cambierò i fiumi in isole e asciugherò le lagune. Farò camminare i ciechi per sentieri che non conoscono, li dirigerò per strade sconosciute. Cambierò davanti a loro le tenebre in luce e le vie tortuose in diritte. Queste cose le compirò per loro e non li abbandonerò. Retrocedono, coperti di vergogna, quelli che pongono fiducia negli idoli, dicendo ai simulacri: voi siete i nostri dei. Sordi, udite. Ciechi, guardate e vedete. Chi è cieco se non il mio servo? E sordo come il messaggero che ho inviato? Chi è cieco come colui che è perfetto e sordo come il servo del Signore? Hai visto molte cose senza prestare attenzione. Hai le orecchie aperte senza intendere. Il Signore voleva nella sua giustizia esaltare e glorificare la legge, ma esso è un popolo spogliato e depredato. Tutti sono trattenuti in caverne, nascosti nelle prigioni. Sono stati depredati e nessuno li libera, spogliati e nessuno dice restituisci. Chi tra voi ha udito ciò? Presta attenzione ed ascolta per l'avvenire. Chi consegnò Giacobbe al saccheggio e Israele ai predoni? Non è forse il Signore contro il quale abbiamo peccato? Non si volle camminare nelle sue vie e non si osservò la sua legge. Allora egli riversò su di lui l'ardore della sua ira e la violenza della guerra. Questa divampò intorno a lui senza che egli se ne accorgesse. Lo consumò senza che vi facesse attenzione.